Ricordo molto bene il 6 agosto dell'anno 6000 avanti Cristo. Si stava per formare la terra e tu decisamente eri già la più bella. Ricordo molto bene l'anno zero, quando ti ho vista e mi guardavi strano e mi dicevi eppure t'ho già visto. Poi è finita, qui ti amo, non ti amo. Correva l'anno 4100, con gli ologrammi andavo sulla luna. Mi hai detto guarda che non scendo, io non faccio gli atterraggi di fortuna. Ti ho vista che era un 7 di dicembre e anche durante la rivoluzione. Ricordo che due palle che mi hai fatto sul valore, l'ideale dell'azione. È come un brivido epico, storico ed apocalittico, cosmico, lirico ed insuperabile, semplicemente quel che trovo io. Ti dico un brivido epico, storico ed apocalittico, cosmico, lirico ed insuperabile, semplicemente quel che provo io. Un giorno di preistoria che pioveva, mi hai dato un legno in mano e detto spiega. E poi si è acceso il fuoco ed è viva, come non ci abbiamo pensato prima. 86 milioni d'anni prima, eri a cavallo di un tirannosauro. Mi hai detto amore non aver paura, fa le feste ma non è cattiva. Ricordo che era il 15-18, mi avevano ferito e catturato. Al fronte tu facevi l'infermiera, di nascosto hai detto scappa ora. Ricordo la paura che ho provato, ricordo allora come fosse ora. Scappavo ma cantavo, mai salvato, certo noi ci rivedremo ancora. È come un brivido epico, storico ed apocalittico, cosmico, lirico ed insuperabile, semplicemente quel che provo io. Ti dico un brivido epico, storico ed apocalittico, cosmico, lirico ed insuperabile, semplicemente quel che provo io. Mi amore.